Sura della stella perforante, capitolo 86esimo del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 17 ayat ed è scesa dopo la Sura 90, Suratul Balad. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, io, Allah, lo giuro sul cielo e su At-Tariq. Cosa ti spiegherà che cosa è At-Tariq? È la stella che perfora il buio cosmico con la sua luce. Non c'è creatura umana che non abbia un guardiano. Rifletta l'uomo su ciò da cui viene creato. Egli viene creato da un liquido che rompe uscendo di tra la colonna vertebrale e il costato. In verità, egli, Allah, ha certamente il potere di attuarne il ritorno a vivere resuscitandolo. Nel giorno in cui saranno rivelati i segreti ed egli, l'uomo, non avrà forza in proprio né soccorritore. Sul cielo e i suoi ritorni ciclici, io, Allah, lo giuro. Sulla terra il suo frantumarsi. In verità, esso, il sublime Corano, è certamente una parola conclusiva e da non prendersi alla leggera. In verità, essi tramano le loro trame, e io pure tramo le mie trame. Perciò pazienta nei confronti di coloro che rifiutano di credere e concedi loro una breve dilazione.